Adesso vi racconto l'inizio di una storia. Non è un grande conto, è neanche una leggenda. Adesso vi racconto l'inizio di una storia. Non è un grande conto, è neanche una leggenda. È neanche una leggenda. Due giganti vivevano in città, molto lontani da qua. Si sono incontrati dopo 27 anni dentro una grande sala dove si giocava e si ballava. Sì, balla, balla la vita, balla con questa melodia pazza. A balla la vita, balla, ti prego non ti ferma. Dopo qualche corso di danza, l'uomo l'ha invitata a casa per fare più conoscenza. Io ti prego, o vieni a cena. Lei accettò e lui Dio ringraziò. Uepa, ritmo latino. Balla, balla la vita, balla con questa melodia pazza. A balla la vita, balla, ti prego non ti ferma. Finalmente è arrivato il giorno che la gente aspettava. Era in agosto, c'era il sole, non pioveva. Loro si sono sposati e non so se avranno figli. La fine non la conosco, a voi di immaginarla. Ma penso che adesso avete capito che balla la vita, balla, balla la vita, balla, balla la vita, balla, balla la vita, balla, balla, balla la vita, balla con questa melodia pazza. A balla la vita, balla, ti prego non ti ferma. Balla, balla la vita, balla con questa melodia pazza. A balla la vita, balla, ti prego non ti ferma. Balla, balla.